Letture di Radio 24. Torna nelle librerie italiane La città delle illusioni, romanzo pubblicato nel 1967 dalla scrittrice americana Ursula Le Guin. La storia si svolge in un lontano futuro, nel quale la Terra è da tempo dominata dal popolo degli Xing. I pochi terrestri sopravvissuti vivono in piccoli villaggi molto isolati, ed è anche grazie a questa divisione che gli Xing riescono ad esercitare il loro controllo. Un giorno, in una comunità situata nella parte orientale del Nord America, arriva un umanoide privo di memoria e incapace di parlare. Una piccola famiglia si occuperà di accoglierlo e di cercare di rieducarlo. Immerso in un caos totale, non conosceva forma, non possedeva linguaggio e ignorava che le tenebre fossero la notte. Quando la luce dimenticata prese a brillargli intorno, si mosse barcollando, a volte correndo carponi, a volte stando in piedi, ma senza andare in nessun luogo. Nel mondo in cui si trovava, non aveva una strada da percorrere, perché una strada implica un principio e una fine. Tutto intorno a lui era indistinto, tutto gli si opponeva. Il suo essere smarrito era costretto a muoversi da forze che non sapeva nominare: terrore, fame, sete, dolore. Vagò silenzioso attraverso la scura foresta delle cose, finché la notte lo fermò, una forza più grande. Ma appena tornò la luce, riprese a vagare. Improvvisamente irruppe nell'ampia luce della radura, si alzò e si fermò un momento, poi si coprì gli occhi con le mani e urlò. Mentre tesseva assorta al telaio nel giardino soleggiato, Parth lo vide ai margini della foresta. Con un battito veloce della mente richiamò gli altri, ma Parth non temeva nulla. Così, quando gli altri la raggiunsero fuori dalla casa, ella era già al di là della radura per raggiungere la rozza figura covacciata tra l'erba alta e matura. Mentre si avvicinavano, videro che gli stava appoggiando una mano sulla spalla e, chinata verso di lui, gli parlava dolcemente. Poi si voltò nella loro direzione e, meravigliata, disse: «Vedete i suoi occhi?» Non c'era dubbio che fossero occhi strani. Avevano una grande pupilla. L'iride color ambra venato di grigio era ovale e schiacciato, tanto che la parte bianca dell'occhio quasi non si vedeva. A parte questo, lo straniero pareva un uomo come gli altri, se non per il fango, le scorticature e il sudiciume di cui s'era coperto il volto e il corpo nudo, aggirandosi senza meta nella foresta. Tutt'al più la pelle appariva leggermente più chiara di quella bruna degli uomini che gli erano accanto, discutendo tranquillamente di lui, che intanto se ne stava accucciato al sole, rattrappito e in preda a brividi di spossatezza e timore. Parth lo guardava diritto in quegli occhi strani, fissandolo, ma in cambio non riceveva nessuna risposta umana. Sembrava sordo ai suoi discorsi, non comprendeva i suoi gesti. «È senza cervello, oppure è fuori di sé», disse Zove. «Ma è anche mezzo morto di fame. Almeno a questo possiamo rimediare». Kai e il giovane Turro accompagnarono quell'individuo incapace di tenersi in piedi dentro casa. Qui, con Parth e Bakiyi, si preoccuparono di nutrirlo, ripulirlo e stenderlo su un pagliericcio con una dose di droga sonno nelle vene per evitare che si muovesse. «È uno Xing?» domandò Parth al padre. «E tu? Lo sei? E io?» «Non essere ingenua, figlia mia», replicò Zove. «Se fossi capace di rispondere a questa domanda, riuscirei a liberare la Terra. A ogni modo, spero di scoprire se è o meno pazzo, o se è deficiente, da dove viene e perché ha quegli occhi gialli». «Creitan», disse Zove, «le palpebre dell'uomo si stanno muovendo, forse sta sognando». La ragazza cieca si avvicinò al pagliericcio, tese una mano e Zove la guidò prudentemente fino alla fronte dello straniero. Erano di nuovo tutti in silenzio, tutti ascoltavano, ma soltanto Creitan poteva udire. Infine la sua testa cieca chinata sull'uomo si sollevò. «Niente», disse con voce un po' tesa. «Niente? Confusione, vuoto, non ha mente». «Creitan, lascia che ti descriva il suo aspetto. I piedi hanno camminato, le mani hanno lavorato, sonno e droga gli rilassano il volto, ma soltanto una mente pensante riesce ad usare e a scavare un volto con linee come queste». «Che aspetto aveva quando era sveglio?» «Impaurito», rispose Parth. «Impaurito, sconcertato. Può essere un alieno», osservò Zove. «Forse il suo modo di pensare è differente dal nostro. Prova ancora una volta, finché sogna ancora». «Ci proverò, zio, ma non percepisco nessun tipo di mente, nessuna vera emozione, nessuna tensione verso qualcosa. La mente di un bambino piccolo è spaventosa, ma questa è peggio. Buio e una specie di vuota confusione». «Bene, allora stanne lontano», disse Zove. disse Zove con tenerezza. Se non c'è nessuna mente, allora non è un buon posto in cui stare con la tua. Il suo buio è peggiore del mio, continuò la ragazza. C'è un anello sulla sua mano. La sua mano si era appoggiata per un momento su quella dell'uomo, forse per pietà o forse inconsciamente, per scusarsi d'aver spiato i suoi sogni. Sì, un anello d'oro senza marchio né disegno. È l'unica cosa che aveva addosso e la mente è spoglia quanto il corpo. Così il povero selvaggio è giunto fin qui dalla foresta. Mandato da chi? Quella sera tutta la famiglia della casa di Zove, tranne i bambini, si riunì nell'ampia sala a piano terra, dove le grandi finestre aperte lasciavano entrare l'aria umida della notte. La luce delle stelle, la presenza degli alberi, il rumore del ruscello avevano tutti libero accesso alla stanza poco illuminata. Tra tutte le persone e tra le frasi che pronunciavano restavano spazi ed ombre che vento notturno e silenzio riempivano. «La verità, come sempre, evita lo straniero», esordì con voce grave il signore della casa. «Questo straniero ci obbliga a prendere una decisione tra varie opinioni tutte poco soddisfacenti. Può darsi che sia un idiota dalla nascita, capitato qui per caso, ma allora chi lo ha perduto? Può darsi che in seguito a un incidente il suo cervello sia rimasto danneggiato o che sia stato manomesso intenzionalmente da qualcuno. Oppure è uno Shing, che dietro un'assenza di pensiero solo apparente in realtà nasconde la sua mente. O forse non è né uomo né Shing. Ma allora cos'è? Non possediamo prove valide a sostenere o smentire nessuna di queste opinioni. Cosa dobbiamo fare di lui? Capire se è in grado di imparare», propose la moglie di Zove, rossa. Metok, il figlio maggiore del signore, si intromise. «Se è capace di imparare, allora non dobbiamo fidarci. Potrebbe essere stato mandato qui con lo scopo di imparare i nostri metodi, di apprendere i nostri pensieri, i nostri segreti, il gatto allevato dai topi compassionevoli». «Io non sono un topo compassionevole, figlio», rispose il signore. «Quindi tu credi che sia uno Shing?» «Uno Shing o un loro strumento?» «Tutti noi siamo strumenti degli Shing. Cosa vuoi fare di lui?» «Ucciderlo prima che si svegli». Il vento soffiò leggermente. Il richiamo di un caprimulgo risuonò nella radura umida, rischiarata dalle stelle. «Mi chiedo», disse la donna vecchia, «se non sia piuttosto una vittima che non uno strumento. Magari gli Shing hanno distrutto la sua mente come punizione per aver fatto o pensato qualcosa. Dovremmo completare noi questa punizione?» «Allora sarebbe un atto di pietà», disse Metok. «La morte è una falsa pietà», ribatté la donna vecchia amaramente. Così sviscerarono a fondo il problema e a lungo, con calma, ma con una sollecitudine che dimostrava interesse morale allo stesso tempo una preoccupazione forte e piena d'ansia, mai espressa, ma evidente ogni volta che qualcuno pronunciava la parola Shing. Parth non partecipava alla discussione perché aveva solo 15 anni, ma ascoltava con attenzione. Lo straniero le aveva ispirato simpatia e non voleva che morisse. «Se non lo ammazziamo come una bestia selvatica», sostenne Bakegli, «dovremmo addomesticarlo come una bestia selvatica». Un mattino, molti giorni dopo, mentre lavorava in giardino su una tela piuttosto semplice, lasciò il telaio ad energia solare che continuò a lavorare da solo e si arrampicò fino alla balconata chiusa dove era tenuto Falk. Egli non la vide entrare. Se ne stava seduto sul pagliericcio, fissando con meraviglia il sole estivo velato dalla foschia. Gli lacrimarono gli occhi per il bagliore, li stropicciò energicamente con le mani e all'improvviso si accorse di quelle mani che restò a guardare stupefatto, girandole sul palmo e sul dorso. Piegava e stendeva le dita, aggrottando le sopracciglia. Poi alzò di nuovo il viso in direzione della luce bianca del sole verso la quale lentamente stese la mano aperta. «È il sole, Falk», disse Parth. «Sole, sole», riuscì a ripetere lui sorprendendosi e diventando serio. La luce e il suono del nome riempivano il vuoto del suo essere. In questo modo ebbe inizio la sua educazione. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Ursula Le Guin, Città delle Illusioni, Gargoyle Editore, 206 pagine, 12,90 €. Qual è il vero nome di Roma? Come avveniva con la forma più antica dell'ebraismo, che nascondeva il nome di Dio all'interno di un tetragramma, anche per la città eterna pare che un tempo valesse il divieto di pronunciarne il vero nome. Vari storici antichi, tra cui Plinio il Vecchio e Plutarco, raccontano che il tribuno della plebe, Valerio Sorano, fu giustiziato per aver divulgato l'occulto nome di Roma. Come il tetragramma, nemmeno il nome misterico di Roma poteva essere pronunciato, a quanto pare neanche dai pontefici nelle occasioni più sacre ed esoteriche. Insomma, Roma era solo il nome pubblico, volgare della città, mentre quello sacro rimaneva un segreto che non si poteva divulgare, pena la morte. Rivelare il mistero poteva compromettere la sopravvivenza stessa della città. Sulla base di queste testimonianze, già dalla tarda epoca romana cominciarono i tentativi di rintracciare l'altro nome di Roma. Ovviamente non poteva essere reperito in alcun testo. Per mantenere il segreto, il nome era stato tramandato solo oralmente. Perciò riscoprirlo doveva essere un'opera di interpretazione, più che di filologia. Alcuni dei nomi suggeriti sono Saturnia, Quirium, Romanessum, Tetrapolin, Amarillin, Cefalon e Florentia. Secondo una teoria proposta nel V secolo dall'esegeta latino Servio, il nome segreto era invece Valentia, che in latino vuol dire forza. Questa ricostruzione sarebbe confermata dal termine greco rome, cioè appunto forza. Lo studioso bizantino Giovanni Lido, nel VI secolo, elaborò un'ipotesi ancora più suggestiva. Roma avrebbe avuto non due, ma addirittura tre nomi. Il primo, Roma appunto, era quello politico, di pubblico dominio. Il secondo nome, quello sacro, era poco diffuso, ma divulgabile, e cioè Flora. Lido riferisce che fra le squadre che correvano nel Circo Massimo ce n'era sempre una chiamata Flora, che veniva in qualche modo associata alla città stessa di Roma. Il terzo nome, quello iniziatico, era questo sì segretissimo, ed era un nome greco, Eros, cioè amore. Anche questo ha una corrispondenza con il nome pubblico della città. La parola Roma, infatti, si ottiene leggendo al contrario amor, a sua volta traduzione latina di Eros. L'ipotesi triadica è stata fatta propria dal poeta Giovanni Pascoli, che cita i tre nomi nel suo Inno a Roma del 1911, spiegando in una nota: Roma aveva tre nomi, amor nei misteri, flora in cielo, Roma in terra. I supposti nomi non ufficiali richiamano la religione e l'origine mitica del popolo romano. Da un lato Valentia evoca la guerra e quindi Marte, padre di Romolo. Dall'altro Eros, o amor, rimanda a Venere, madre di Enea e quindi capostipite della gens Iulia. Se Valentia spiegava l'invincibilità delle legioni romane in guerra, Eros era l'amore inestirpabile, ricordato ancora nell'Ottocento da Eine, che i romani nutrivano per la propria città e che, nonostante tutto, nutrono ancora oggi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del libro di Paolo Giangemi, Piccolo libro delle curiosità del mondo, la geografia che non si studia a scuola. Sironi Editore, 174 pagine, 16 euro.